Un buon vinello di sotto What kind of problem? Non è che gli ausci male con questo bambino, uia! Buono veramente questo qua. Questo qua addirittura è barbattere di ussi piantate e fatte a vigna nella zona di... non so che zona si chiama quella lì. Praticamente dalla Budibuti ci sono delle intersezioni dove c'è ferrovia che ce l'ha presente. Ma allora l'ha fatto proprio a Ussi? Non è fatta a Ussi, il fratello di Ussi. Hanno la campagna lì. E ha buscato questo, ha fatto questa vigna da barbattere che c'erano a Ussi. Ha fatto la vigna. E quindi la vigna, diciamo che il vino è il tipo di vino è quello che fanno a Ussi, capito? Amico mio, cassettina, questo non me ne ha dato. Adesso gli ho chiesto se c'è un litro, chi sei buono davvero, di ussi proprio. A volte, prima quando era giovane la vigna portavano l'uva da ussi, la macinavano in campagna, se la compravano e poi la macinavano, invece per lui non è buono. Adesso la vigna se l'ha piantata lui, è già un po', diciamo, vecchiotto, lo fa come si deve, capito? Questo di questo che conosciamo noi, dai, c'era minimo 30 anni questa vigna. Ma durano tanto, esce un vino che... Per avere il vino nuovo, mamma mia, roba buona, davvero. Io ti faccio cantare la strada. Questo che mi hanno regalato ieri è il cannonau, ma non mi piace, è forte, però ti lascia con la marona in bocca. Ma io ce l'ho fatto con quello. Se lo sto bevendo mia moglie, che a me non mi piace, non mi sapore, non mi piace. No, io lo bevo a voglia. Cavagava, ce l'ha portato da Nuraki questa microosta. Io però guardo i pizzanti, Beh, lì fanno anche, come si chiama, la vernaccia, che a me non mi piace. No, non va bene quella. A me non mi piace, non mi piace usare, per cucinare potrebbe andare, perché di camuffa sapore. Comunque i vini del Nuarese sono molto forti, I Zorgali, quella zona lì è tremenda. Già lo so già, con quello si fa andare alla grande. Zorgali, ora sì, quella zona lì, i vini sono buonissimi. Buoni no, sono lì buoni proprio. Ma capito invece dalla Candrea di Mucciavanti. A me lo si dice, io guarda, lo conosco molto bene. Quando andiamo dalla zia di Liliana, Nuoro, io che me li metto nei cucini, bevi ancora, buffa, e me li manda sempre a casa che vengo la limpia. Di chi c'è vino pastoso, quello che ti lascia il segno nel bicchiere, proprio il rosso del vino, attaccato al bicchiere. Buffa! Buffa! Buffa! Buffa! Buffa! Buffa! Buffa! Buffa! Buffa! Buffa! Buffa! Buffa! Buffa! Buffa! Buffa! Buffa! Buffa! Piano piano, perché come ne manca un po' subito te lo metto. Non so, già. Uno proprio che sta attento ai bicchieri, te li mangi? Non so, spettina. Adesso mi sono ricordato di una cosa, lo sai? E di cosa? Fra mezz'oretta, fra una mezz'ora, dai, ho fatto di più in più pure. Scendo giù e comincio con l'aspirapolvere. Perché casino? La macchina. Dopo un po'. Ma vada, vada. Devo aspirarla tutta. Quello c'è meglio perché se ci sta c'è lui. Entra avanti, sempre con proprio potenza questa ragazza, va. Allora chiedo il break, dai. Vai. Ciao Massimiliano. Ciao Gianni, ciao per Paolo, ciao due con la speranza che mi ascolti. Sei uscito tutto a tratti Massimiliano. Abbiamo cucinato un maialetto che è un Natale, la quindi ci avevo anche un'idea di fare. con tutti i canditi e l'uva passa. A me piace quello lì. Panettone tradizionale, tu di sicuro a crema. Io ho mangiato il tronchetto di Natale a Natale perché era il compleanno di mio cognato, ma boh, a me non mi piace. Thank you. chiamava Mario. Mario. Gentilissimo, una persona rispettabilissima, la sua parlava si capiva. Molto gentile, molto educato, parlando. Yeah. Ritta c'era un Sinara, c'era molta gente, lui non ha preso la moto suo, capito? E quindi c'era quello che ti metteva la portante, l'altro che magari ci vuole parolacci, ma chi gli fregava la pippa, eccetera, eccetera. chicche, radioamatori con contest, tutte queste cose li fanno barba e capelli, diciamo usare l'apparecchio molto meglio di tanti altri che ci hanno la patente e che magari lo usano come il baracchino, capito? Dipende sempre dalla persona. Thank you. così. Non saranno tutti dei geni, ci sarà quello come c'è la CB, c'è quello che si arrangia come te, c'è visto gli apparecchi, c'è quello che non sa fare nulla, non è detto che tutti siano portati per certe cose. adesso vabbè. No, io gli accedo gli amici, cioè ci può essere la stessa età tua. E gli amici ti amici ce li ho. Gli amici te non devono mai mancare, ricordatelo. Perché dovesse andare male qualche cosa in famiglia, coso, le amicizie sono molto importanti, sono il tuo punto d'appoggio, se non c'hai quello chiamarmi. Thank you. Enrico Zambetta. Stiamo divertendo, stiamo divertendo a provare un po'. Andrà bene, sono già stampando per me. Sono con Felice, 74 calare, monodato. Si sente? Sì, pompa. Ehi, a 3,40 S. Quello modificato, non da me però, eh. Grazie.